Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, sono le 8:19. 8:19 e fino alle 9:30 ancora oggi, fino alle 9:30 per pochissimi giorni, ma ancora oggi e domani, ancora due giorni. E oggi c'è giovedì. Oggi è giovedì. Faccio e domani sarà dormire. Venerdì. Va bene. Comunque, questo 22 di settembre, San Maurizio. San sì. Maurizio, insieme a San Giorgio, erano i due santi delle grandi ordini cavallereschi dell'Occidente. Comunque, San Maurizio, auguri anche a chi si chiama Emerita Basilia Salaberga. Mm-hmm. Detto tutto questo, auguri tra gli altri a chi fa il compleanno oggi, ma tra gli altri Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, ecco questo. Ah. Mi piace ricordare questi due. Mi sembra giusto. Allora, oggi è abbastanza scontato il tema che affronteremo, eh? 8-0-0. Ah, no, la Juventus in testa della classifica. Il Milan che è il closing. No, neanche il closing. Tutte notizie scontate, in effetti. 800-24-0024. Parliamo del no di Roma alle Olimpiadi. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, prima, quando arriva Malagò, va a mangiare la matriciana e poi fa una conferenza stampa nella quale dice in maniera secca no alle Olimpiadi del mattone. Forse, Oscar, possiamo già sentire qualcosa di Virginia Raggi. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. No alle Olimpiadi del mattone, assolutamente no. Assolutamente no. E questa è la posizione molto netta. Sai che raccontano che in realtà la Raggi era pronta in qualche modo a mantenere uno spiraglio aperto, ma Beppe Grillo il giorno prima ha detto questa vicenda va chiusa domani, cioè ieri poi, in maniera definitiva. E questa vicenda è stata chiusa. Sì, quello che il CONI e Malagò hanno fatto scrivere a tutti i giornali, questo sì. Dici? Lo dice. Va bene, la questione... Scusa, il CONI è partito dal presupposto che siccome non c'era un governo a Roma e loro avevano avuto il sì del Consiglio Comunale, loro andavano avanti. Il loro argomento è abbiamo già speso i soldi, non potete tornare indietro. 15 milioni di euro. È una cosa molto all'italiana. Come devo dire. Tra l'altro di questo poi parleremo tra poco perché si profila, secondo qualche giornale, addirittura la possibilità che se Roma recede adesso, e recede, che qualcuno voglia chiedere indietro anche questi soldi già spesi. Questi, meglio questi dei miliardi. Io, questa vicenda insomma è una vicenda in cui a me non è piaciuto ieri il tono da commedia da Pochard con cui si è risolto. Perché da quando Enrico Letta e Alemanno Sindaco, Enrico Letta premio Alemanno Sindaco, rilanciarono l'idea della candidatura a cui Monti aveva detto no, per ragioni serie secondo me, fin da allora, andate sul sito dell'Istituto Bruno Leone, troverete un mucchio di paper approfondimenti in cui ci siamo sforzati di tirar fuori tutti i numeri delle edizioni precedenti delle Olimpiadi, tutti i fallimenti della previsione dei costi, tutte le bugie sugli impatti delle economie nelle diverse edizioni dei giochi, tranne un solo caso, Los Angeles, dicendo per Roma, che ha 13 miliardi di debito in gestione commissariale, l'ATAC, l'AMA, mezzo miliardo di squilibrio strutturale e ha soprattutto nel suo passato i disastri di Italia 90 e dei mondiali di nuoto, beh, forse a maggior ragione ci vuole un confronto serio su questi numeri. Il confronto serio su chi aveva obiezioni assumere non c'è mai stato. Il comitato promotore è andato avanti secondo un modello previsivo dei costi, benefici e dei costi. Io, non solo io, ma insomma gente molto più autorevole di me, ha sorriso quando le ha viste quelle cifre. I 177.000 posti aggiuntivi di lavoro, vedete nel libro di Roberto Perotti Status Quo, e con una sublime ironia il professor Perotti dice no, veramente sono 6.000, non 177.000. Purtroppo ieri è finito in commedia, sì. E questo, sì, secondo me non aiuta, sì, serviva pranzo, un dibattito serio. Non riceverlo. Però le ragioni delle obiezioni sono ragioni forti, valide, anche se anche i giornali di oggi riducono il tutto a una specie di commedia delle parti, tra un no pregiudiziale come se fosse infondato e invece le ragioni presunte dell'orgoglio, però, italiano, del successo. Sì, vabbè, a me dispiace vedere per esempio tutti gli atleti olimpici strumentalizzati, sì, a testa bassa. Vabbè, ma io posso immaginare, se uno fa l'atleta olimpico, come dire, che cosa c'è di meglio che fare le Olimpiadi in, sì, casa propria, però, vedendola dal punto di vista proprio prettamente ti dico, sportivo. Ti dico, Bebe Vio, che è straordinaria questa stupenda ragazza che vince medaglie con la sua passione entusiasmante che trasmette nella scherma l'evento Rio, però vedere Bebe Rio che ripete la cosa, cioè, non si può dire no alle Olimpiadi perché sono un regalo a Roma. Le Olimpiadi non sono un regalo, costano. No, ma tra l'altro che ci sia una giunta da questo punto di vista compatta a dire il no, lo testimonia anche un'intervista all'assessore Berdini, che è intervistato dal Manifesto. Berdini era quello che aveva avuto un po' più di aperture, non era il suo un no totale alle Olimpiadi. E invece, intervistato oggi dal Manifesto, dice: guardate che il sindaco Raggi ha perfettamente ragione, perché quello che era previsto dal sindaco Marino con il sì avrebbe devastato il profilo urbanistico. Quindi anche Berdini in qualche modo chiude il fronte dei possibili aperturisti all'interno della giunta. Però Giovanni, parlano di un piano B del governo. Eh sì, si parla di un piano B, cioè oggi si incontrano Malagò, Renzi e Lotti, era un incontro previsto alla luce di la speranza di un sì o di una semiapertura di Roma. E si parla di piano B, cioè andare avanti sebbene Roma sia contraria. Questa mi sembra una strada un po' tortuosa, ecco. Cioè fare le Olimpiadi in una città dove l'amministrazione comunale non è d'accordo. È vero che sono nel 2024, eventualmente, però insomma, coi tempi italiani significa dopodomani praticamente bisognerebbe iniziare a lavorare da adesso, sì, per non finire se non nel 3024. Godono a Los Angeles sono contenti, ovviamente una rivale possibile. Ma si però elimina. Vedi anche che al Comitato Olimpico Internazionale sono preoccupatissimi, perché oramai le candidature delle città del mondo avanzato sono sempre meno, perché la gente vede i precedenti, ripeto, sui quali non c'è verso di far riflettere i giornali italiani, perché siamo proprio figli di questa cosa, per cui chi obietta o guarda i numeri e si chiede la semplice domanda: chi paga? Viene trattato come se fosse, non so, un nemico, un traditore dell'Italia. Sì, c'è anche chi chiede, e giustamente chiede, ma come, spesi già 15 milioni di euro? Ma sapete, la comunicazione, i siti, la promozione, i testimonial. Alle Olimpiadi di Rio, già come se fossimo certi, eravamo l'unica città tra quelle che hanno presentato l'unico comitato promotore tra quelli che hanno presentato una candidatura, che avevano una struttura Casa Italia ad hoc a Rio. Per questo, queste cose costano. Certo, costano. E quindi questi sono i 15 milioni. Attenzione, non iniziamo, perché non le facciamo a Milano, perché non le facciamo in Sicilia. De Magistris adesso dice facciamole a Napoli, ma 4 anni dopo, nel Vaticano, 2028. Vorrei farle in Vaticano. In Vaticano, però. Così non pagano l'ICI. Non è male in Vaticano. In esempio, Vaticano. Facciamo sul lattico il cardinale Bertone la maratona, visto che è piccolo. Due giri. Uno e mezzo. Due giri del lattico e facciamo la maratona. Si scherza, sua eminenza. Scherzo, il cardinale Giannino sta scherzando. Ci mancherebbe. Il cardinale Giannino sta scherzando. Era un po' che non ti chiamavo cardinale Giannino. Perché no? Visto che l'Europa ha dato loro ragione, non devono pagare l'ICI pregressa, quindi facessero le Olimpiadi. Comunque, con noi per parlare di questo tema ci saranno le vostre telefonate all'800240024. Abbiamo due ospiti, però. Riccardo Magi, dei Radicali, buongiorno. Buongiorno a voi, ascoltatori. Tra l'altro è stato consigliere comunale a Roma. Quando avete firmato, cioè avete firmato voi, no, voglio dire, ma quando la delibera Giunta Marino c'è stata, no? Sì, era il giugno del 2015, quando il Consiglio Comunale ha votato la mozione che ha dato mandato al sindaco Marino di firmare il primo atto per la candidatura. Esatto. La prima lettera che firmano insieme il sindaco della città candidata e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale. E guarda che insieme a lei, Maggi, vogliamo salutare l'avvocato Gianluigi Pellegrino. Avvocato, buongiorno e grazie di essere con noi. Perché l'avvocato Pellegrino, buongiorno, abbiamo letto su Repubblica ieri, è colui che ha firmato, come lo dobbiamo chiamare, un parere a favore del un parere per il CONI, è corretto dal punto di vista formale, avvocato Pellegrino? Sì, mi è stato chiesto un parere dal CONI. Un parere dal CONI, nel quale si prospetta appunto che cosa? La possibilità di chiedere indietro i soldi già spesi qualora il comune facesse marcia indietro, come ieri è stato annunciato dal sindaco? Ma sì, guardi, per farci intendere degli ascoltatori, credo che sia sufficiente dire cosa avrebbe dovuto fare dal punto di vista giuridico, istituzionale e di corretto il sindaco Raggi. Il sindaco Raggi avrebbe dovuto dire, come sapete io ero contrario alla candidatura olimpica, fossi stato io sindaco all'epoca non avrei candidato Roma, però oggi sono diventato sindaco, sono rappresentante legale di un ente pubblico che ha già candidato Roma, ha già assunto impegni e ha chiesto e ottenuto dal governo di assumere impegni economici per circa 15 milioni di euro. Quindi io oggi devo dare seguito, per ragioni di serietà e di continuità amministrativa e perché pacta assunto servanda, devo anche mio malgrado politicamente dare seguito agli impegni assunti. Cioè era obbligata? Era istituzionalmente obbligata, perché se un ente pubblico chiede a un altro ente pubblico di sostenere un suo percorso, una sua candidatura, un suo obiettivo, la volontà di realizzare alcune opere, e per questo l'altro ente pubblico investe dei soldi, immaginiamo per progettare l'opera che quell'altro ente gli ha chiesto, o nel caso nostro per sostenere la candidatura, poi ovviamente non può dire ho scherzato, ora la ritiro la candidatura. Ho capito, ma le scelte politiche dove stanno, avvocato? Le scelte politiche davanti agli impegni istituzionali e giuridici recedono. Esiste un limite entro cui la coerenza politica deve fare posto al fatto che io divento rappresentante legale di un ente che degli impegni ha già assunto. Oppure se vogliamo, non è escluso che il comune possa tirarsi indietro, ma deve tenere indenne lo stato dei soldi che ha speso perché il comune gliel'ha chiesto. Insomma, questo è Oscar, capisci? O andava avanti mantenendo l'impegno che l'istituzione Roma Capitale aveva già preso. Comune, non tocca a me, mi fa sorridere l'idea che alcuni ignorino che lo Stato ci stabilisce pure tasse retroattive per tutti noi, come fa regolarmente a ogni legge di stabilità, e ora per 15 milioni già spesi dal CONI bisognava esporsi al rischio di spendere miliardi. Però comunque CONI, lo capisco, faccia la sua parte, resta il fatto che un dibattito serio con un modello previsivo dei costi, benefici, degli oneri per tutte le spese, dalla sicurezza all'infrastruttura e non solo impiantate su le strutture già esistenti a Roma, è mancato. Questa è la mia opinione di osservatore che si è occupato della cosa, ho dato una mano a chi chiedeva, ne parleremo con Maggi, anche che si esprimessero i romani con un referendum. È mancato perché l'impostazione del comitato promotore è sempre stata quella, ma lasciate perdere, noi col governo andiamo avanti, già lo sappiamo. Del resto l'appoggio anche di importanti strutture di impresa c'era, a cominciare dal nostro azionista Alessandro, noi possiamo dire di no perché così un'industria a Roma, come ai tempi della candidatura sotto Monti, anche in questo caso era molto favorevole, io lo posso anche capire. Quello che mi ha molto colpito è la difficoltà di fare un confronto serio sulle esperienze precedenti dei giochi e sul bilancio di quanto a Roma è stato fatto. Però, ai mondiali di nuoto e ai mondiali italiani. Prima di coinvolgere Maggi, vorrei un altro punto dell'avvocato Pellegrino, perché oggi alcuni esperti di diritto amministrativo proprio su questo parere dicono: attenzione, prima di richiedere indietro i soldi eventualmente bisogna dimostrare in sede di giudizio che Roma avrebbe vinto, che Roma sarebbe stata davvero candidata, non semplicemente abbiamo già speso dei soldi, ridatecelo indietro. Questo punto in punta di diritto la convince, avvocato? Ma no, perché a parte che questa è una prova diabolica che nessuno potrà mai dare, se Roma ritira la candidatura nessuno saprà mai se Roma sarebbe stata o meno prescelta. Roma ha chiesto allo Stato 15 milioni di euro, semplifichiamola così, non per diventare sede delle Olimpiadi, ma per candidarsi alle Olimpiadi. Ah, esatto. E quindi non può dire, dopo che lo Stato li ha spesi, dice scusa, ho scherzato, ho cambiato idea. Mi permetto di dire quello che osservava Giannino, come al solito, con puntualità, con competenza, che sono tutti argomenti validi rivolti allo Stato, sì, cioè l'ente centrale, lo Stato è criticabile quanto vogliamo per aver scelto più o meno a cuor leggero di sostenere la candidatura di Roma, ma non sono argomenti che può spendere Roma, che da un lato aveva solo vantaggi ed è stata Roma a chiedere allo Stato di investire i soldi. Insomma, se io chiedo a Giannino di sostenere il mio trasferimento a Torino perché per me, per lui è meglio che io mi laurei al Politecnico e lui mi affitta e fa un contratto d'affitto per una casa a Torino per sostenere questo mio obiettivo e io però dopo 10 giorni gli dico scusa ho scherzato, me ne voglio andare alle Maldive con Claudia Schiffer, beh Giannino mi dice scusa ma ti dispiace se mi dai i soldi della casa che ho affittato per stare a Torino. Il diritto è buon senso, se coinvolti gli enti pubblici ancora di qua più. La questione Maggi, rischia Roma di avere anche questa beffa per una firma che lei non ha voluto ovviamente ma che si riferisce alla consigliatura anche di cui lei ha fatto parte. Come la mettiamo? Ma no, guardate, su questa faccenda del danno erariale secondo me non ci siamo proprio, nel senso che come l'avvocato sa bene il comitato promotore Roma 2024 è un ente in house del CONI, a differenza di precedenti candidature non è stato formato un comitato promotore all'interno del quale ci sia anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale. E questo perché questa candidatura ha avuto una storia particolare, è stata avanzata e dopo un mese è caduta la giunta comunale. Questo ha fatto sì che, la giunta Marino chiaramente, ha fatto sì che anche tutti gli aspetti del progetto relativi alla parte più interessante, cioè le trasformazioni urbanistiche, le infrastrutture per la mobilità, il miglioramento dei servizi, è stato completamente trascurato proprio perché è mancata nei primi mesi di candidatura l'affiancamento dell'autorità amministrativa e politica della città. Questo è un punto nodale che non è stato recuperato. Se il comitato promotore ha deciso di spendere delle risorse anche in iniziative promozionali, le abbiamo viste, di assumere impegni con dei partner industriali, aziendali, di fare appunto campagne pubblicitarie, è una decisione che ha preso il comitato promotore, al limite io potrei dire da cittadino italiano di fare un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale contro il comitato promotore che ha deciso di fare queste iniziative senza avere nessuna certezza poi della solidità di questa impresa che si avanzava. Però facciamo ancora un passo indietro, perché è accaduto secondo me qualcosa di surreale che ha a che fare con quello che diceva Giannino, cioè la mancanza di un confronto serio. Non si può dire di no, a mio avviso, ad una candidatura sulla base del fatto che ci sono state le ruberie e che queste sarebbero le Olimpiadi del mattone, a maggior ragione se si ha la responsabilità di governo della città. Sì. E non si può dire di sì semplicemente sparando dei numeri, 170.000 posti di lavoro, e senza entrare nel merito di che cosa lascerà alla città la famosa legacy, la famosa eredità che resterà come beneficio duraturo alla città. Questo non è avvenuto. Quando noi abbiamo chiesto il referendum, eravamo a gennaio di quest'anno, sì, gennaio-febbraio, l'abbiamo chiesto proprio perché di solito, non sempre, ma di solito quando si fanno i referendum poi si sviluppa un dibattito, escono fuori le argomentazioni, ci sono gli urbanisti del sì e gli urbanisti del no, gli economisti non c'è del stato niente questo non è avvenuto, questo è il punto vero. L'abbiamo affrontato dal tema della eredità che potrebbe esserci, ma certo effettivamente si potrebbe raccontare quello che non c'è, cioè, stato, nessuno quello oggi che non c'è stato prima. Ha capito neanche a grandi linee che cosa avrebbe portato alla città in termini di nuove opere, di nuove infrastrutture, perché poi quando il CONI ha presentato il progetto a alla fine di febbraio di quest'anno, beh, quel progetto era tutto sbilanciato e non poteva per certi versi che essere così perché mancava l'autorità politica e amministrativa della città, tutto sbilanciato sugli impianti sportivi, non si capiva poco o nulla in termini di altre infrastrutture. Allora, però, Maggi, fermiamoci un attimo perché dobbiamo andare un paio di minuti in pubblicità, poi ci sono gli ascoltatori, ovviamente torniamo, il tema del giorno è questo, caro Oscar, le Olimpiadi, il no, la pietra tombale, chissà se c'è ora una strada tortuosa, piano B del governo, ma insomma, parliamo di questa cosa qui. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, eccoci qui. Eccoci qua. Allora, Olimpiadi, Di Olimpiadi, stai parlando della medaglia d'oro per il disastro dell'anno della campagna Fertility Day del ministro Lorenzin? No, non parliamo di quello. No, di quello. Che se la cava cacciando la direttrice, dicendo che quello che le hanno fatto vedere lei era in bianco e nero e non si capiva che erano i compagni del vizio. Allora, tu capisci che anche ai tempi della Prima Repubblica sarebbe andata a casa una ministra che fa il bis in due settimane di cose simili. Sì, questo Fertility Day è nato un po' male nella comunicazione. È oggi, peraltro, amico. Il Fertility Day di fatto è oggi. Lo ricorderemo come uno dei peggiori tentativi di servire con buone intenzioni una causa che doveva volgere a tutt'altri fini, declinata in una maniera disastrosa, rivelando purtroppo che cosa, perché poi questo è l'aspetto, c'è un aspetto politico, non sono infortuni, rivelando che nella realtà le buone intenzioni spesso in Italia su questi argomenti si declinano avendo in testa un confuso mix di pregiudizi religiosi, razziali, eccetera, eccetera, perché è evidente che sì, nei due insuccessi salta fuori questo, è veramente incredibile. È incredibile. Comunque, invece, le Olimpiadi, siamo con l'avvocato Gianluigi Pellegrino, siamo con Riccardo Maggi dei Radicali. Gli ascoltatori, Marco da Milano, che ci dice sulle Olimpiadi? Marco, buongiorno. Buongiorno, ma semplicemente guardarsi dentro, nel senso... Chi è che non avrebbe fatto altrettanto? Ci è voluto una esile donna di 50 kg per dire quello che tutti gli italiani, tranne qualcuno di Roma che è strettamente interessato, ha avuto il coraggio di dire. Insomma. Quindi, forse, insomma, si sa in Italia queste cose come vanno a finire, specialmente a Roma, dopo i palazzinari che hanno appena arrestato. Quindi lei è proprio dell'idea, non si fanno perché sennò c'è la corruzione, che è l'argomento che Riccardo Maggi dice non deve essere il primo argomento, comunque invece la sua posizione, Marco, è questa, soprattutto a Roma, aggiunge, vabbè, da Milano. Renato ci chiama anche lui da Milano, buongiorno Renato. Buongiorno, senta dunque, brevissimo, allora prima cosa il no alle Olimpiadi lo do per scontato, ma non perché la Raggi che ha detto di no e quindi bisogna dare addosso a lei, ma per il semplice fatto che ci sono ben altri che hanno provveduto a sconquassare il bilancio del Comune di Roma e quindi non è sopportabile un altro sconquasso e quindi è giusto che sia no, primo. Secondo, non si può sentire Malagò in televisione che si mette a piangere perché la Raggi gli ha chiuso la porta in faccia, cioè uno che prende uno stipendio del genere quando va in televisione perlomeno deve argomentare in maniera un pochettino più contenuta. Renato, ecco. cosa c'entra lo stipendio con e sarà stato molto deluso? Vogliamo sentirlo Malagò? No, il fatto che sia deluso, sentiamolo Malagò. No, ma deluso però, sì, però lo stipendio che prende in questo caso, non so, secondo me in questo caso c'entra poco. Sentiamo però Malagò cosa ha detto. Questo è un danno alla credibilità italiana. La credibilità italiana, cioè noi siamo a pezzi da questa storia se non ci dovesse essere, diciamo, un passaggio diverso da quello di oggi. Invito chiunque a non dare, diciamo, interpretazioni diverse perché non ci stiamo rendendo conto il danno che facciamo per le future generazioni. Ecco Oscar, forse il danno alle future generazioni è un po' troppo. No, il tono di Malagò, questo parlare in maniera così apodittica, autoritaria, io invito chiunque a non parlare di altre ipotesi se non quello che dico io, il danno alle future generazioni, oppure chi firmerà commette un delitto. Un delitto. Questo c'è scritto sui giornali, si sì, ha detto. Benissimo, cioè uno prende atto che questo è lo stile con cui in Italia si vogliono lanciare i grandi progetti. Ripeto, non mi è piaciuta la cosa di ieri, non sto dicendo, è evidente che non è un procedimento attraverso cui si fanno scelte ponderate quando si è sotto gli occhi del mondo, la teatralizzazione, nel non riuscire a fare un confronto. Devo dire che poi anche Malagò ieri mattina che iniziava a dire lo facciamo in streaming, sì, cioè era evidente e che lei c'era già la matriciana di tutto leggo poco contenuto, ecco, se posso esprimermi con grandissimo rispetto verso, ricordo anche che Margot è un imprenditore di suo, poi non è un dipendente dello Stato, come Coni che è pubblico c'è una retribuzione, però lui è un imprenditore, la Samocar, insomma, una grande concessionaria di auto a Roma, quindi questo ricordiamocelo. Detto questo, lo stile della casa è un po' quello là. Avvocato Pellegrino, ci può far capire i passi successivi? Cioè, mettiamo il caso che oggi arriva la delibera, domani arriva la firma nel Consiglio Comunale, cioè che passi pratici lei consiglia al CONI? Cioè, cosa si fa? Si denuncia? Deve intervenire prima la Corte dei Conti? Cosa succederà? Ma no, io credo che il CONI e lo Stato abbiano il dovere di porre al Comune la questione di aver reso del tutto vani per sua scelta arbitraria, persino legittima, ma arbitraria, nel senso del tutto discrezionale, di revocare una candidatura sul quale hanno chiesto un investimento dello Stato e del CONI. Io credo che Stato e CONI abbiano il dovere di chiedere conto al comune di questo. Cioè, chiedere i danni. Sì, chiedere la restituzione delle somme che il Comune ha chiesto allo Stato di investire per sostenere la sua candidatura. Caro Comune, hai cambiato idea? Bene. Quando Maggi diceva ma bisogna vedere perché il Comitato Promotore ha speso questi soldi, è un rilievo che sarebbe giusto se il Comitato Promotore avesse speso soldi pacificamente esuberanti rispetto al sostegno a una candidatura alle Olimpiadi. Invece è provato e documentato che il Comitato Promotore di Roma 2024 ha investito la metà degli altri due comitati promotori che sono in lista per queste Olimpiadi. Quindi se le spese sono giustificate, è chiaro che se hanno speso i soldi per farsi le vacanze al mare, nessuno deve restituire niente a nessuno, ma se sono spese del tutto congrue rispetto a un impegno che Roma ha chiesto, beh, Roma che adesso ritira quell'impegno e quella richiesta deve indennizzare gli altri cittadini italiani. Il paradosso è che alla fine ai romani costa questo no, mentre da quello che ha garantito lo Stato e il Governo non sarebbe costata né la candidatura né l'eventuale svolgimento delle Olimpiadi. Raggi sembra non aver fatto l'interesse dei romani, poi forse ha fatto l'interesse dello Stato al posto di Renzi. Avvocato, vogliamo dire questo? Posso dire solo una cosa? Avvocato, senta, nella storia delle Olimpiadi che noi abbiamo studiato e abbiamo coinvolto economisti di 4 università italiane per i nostri paper su questo problema, senta, l'ipotesi che dichiarate sempre, lei come avvocato, ma che gli esponenti del comitato promotore, a cominciare dal presidente e dai molti grandissimi atleti che hanno dato il loro tempo e le loro energie per questo, e cioè che questa cosa sarebbe costata niente all'Italia e a Roma, questa dichiarazione può essere accettata in coerenza a quello che è avvenuto nella storia delle Olimpiadi solo nell'unico caso in cui si fosse proposto una edizione dei giochi coerente al modello Los Angeles, che è l'unico precedente nel quale si fa tutto attraverso i privati. Punto. A capo. Non è la scelta fatta dal modello del comitato promotore nelle due diverse versioni del rapporto costi-benefici, perché la seconda, ne do atto perché me ne sono occupato, aveva una riduzione dei costi proposti molto significativa. Quindi io invito lei come avvocato e membro del comitato promotore a non ripetere la storia che la proposta edizione dei giochi a Roma non costa niente allo Stato e a Roma, perché non è possibile, non dico che non è vero, dico che non è possibile, perché in coerenza al modello proposto ci sarebbero stati, i proponenti dicono, più contenuti delle altre edizioni e dei precedenti in Italia, benissimo, ma ci sarebbero stati degli oneri per i contribuenti italiani e inevitabilmente anche, sia pur secondo la proposta del comitato, molto ridotti per l'amministrazione romana. Allora, siccome questo, per questo dico, a me non piace la demagogia con cui si dice non c'erano costi. Ah no, e chi le pagava? Gesù Bambino? Siccome lì non c'era la scelta, ci pensano solo i privati. I costi c'erano. Lei non mi può attribuire cosa che non ha detto. Io la invito a non mettere insieme i conti dello Stato con i conti di Roma Capitale, che sono due enti giuridici distinti, spesso contrapposti tra loro in posizione negoziale e contrattualistica. Quindi il tema è Roma Capitale avrebbe speso o guadagnato in infrastrutture, in investimenti da parte dello Stato sulla candidatura, Sicuramente in fase di candidatura non avrebbe speso un euro, questo è garantito. In fase di Olimpiadi, da quello che dicono Renzi e Malagò e Coni, nemmeno avrebbe speso un euro, da quanto dice lei avrebbe speso poco. Quindi per quanto riguarda le casse di Roma Capitale, un problema di spesa non si poneva. Per quanto riguarda le modalità con cui i soldi sarebbero stati spesi, la regolarità delle gare d'appalto, avrebbe vigilato Roma Capitale, quindi da parte del sindaco dire, come giustamente diceva Maggi, non lo faccio perché temo l'imbrogli, vuol dire che non ti fidi di te stessa sulla capacità di controllare. Quindi io la invito con la, diciamo, con altrettanta educazione a non confondere l'entità giuridica Stato con l'entità giuridica Roma Capitale, che sono due entità giuridiche diverse. Io dico solo che quando si dice fare gli interessi di Roma, non gli interessi dello Stato, il contribuente per me è sacro, sia romano nazionale. Sì. In ogni caso metteremo in conto i 13 miliardi e 15 milioni diventerà nel caso il debito di Roma, 13 miliardi e 15 milioni. Abbiamo un minuto per chiudere, Maggi, questa vicenda è finita, è pietra tombale, la chiudiamo qui? Ma a me sembra difficile immaginare che proprio perché appunto la candidatura è della città, nonostante quello che si è detto in queste settimane, cioè che la candidatura sia del paese, formalmente l'atto è del sindaco e della città che si candida, poi ovviamente coinvolge il governo. È uno spaccato, a mio avviso, abbastanza disarmante sulla classe dirigente del nostro paese, quello che viene fuori. Bravo. Perché, ripeto, noi avevamo proposto la via del referendum in anticipo, siamo rimasti isolati perché credevamo che un momento di dibattito ampio, portando fuori i dati storici e consentendo magari a chi, sia da un punto di vista organizzativo, sportivo, sia politico, volesse invece avanzare la candidatura, lo faceste cercando di convincere i cittadini rispetto proprio a quell'esperienza storica. Invece si è preferito da una parte, dalla parte del CONI, provare a convincere la nuova sindaca, la nuova giunta, come si è sempre fatto in passato, da parte di questa nuova giunta, nonostante hanno la responsabilità dell'azione amministrativa. A mio avviso, se avessero motivato come ha fatto Giannino ora ieri in conferenza stampa, già sarebbe stato diverso, ma dovrebbero spiegarci perché loro ritengono o ritenevano di non poter influire su questa candidatura. Sì. Cosa gli ha presentato Malagodi così indicibile? Cioè, allora si spiega, si racconta, si fa un ragionamento in cui si dice ai cittadini queste Olimpiadi non si potevano più riprendere. Sì, anche questo effettivamente non è stato effettivamente molto chiaro, tutti i motivi dal primo all'ultimo per i quali è arrivato questo no secco, netto, no, da parte della giunta Movimento 5 Stelle. Dobbiamo fermarci perché c'è il giornale radio, però gli ascoltatori sanno pazienza, ripartiremo da loro dopo le 9. State con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ieri il governo ha presentato il piano Industria 4.0. Intendiamoci, difficile se non impossibile che un piano governativo o un indirizzo di politica economica faccia cambiare completamente verso a un rallentamento dell'economia che riguarda non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma l'intera prospettiva mondiale. Ma è proprio perché l'economia sta rallentando che è importante che vi siano delle iniziative di politica economica che riguardino in primo luogo la componente fiscale. Allora ieri il ministro Carlo Calenda ha annunciato un piano che nell'intenzione del governo dovrebbe mobilitare 10 miliardi di investimenti dei privati, ma un piano su cui il governo metterà 13 miliardi di incentivi fiscali. In realtà la novità più forte è rappresentata proprio dall'utilizzo di questi incentivi fiscali. Il credito d'imposta per ricerca e innovazione sarà incrementale e l'aliquota della spesa interna viene portata fino al 50% con un credito massimo che passa da 5 a 20 milioni di euro. In aggiunta è prevista non solo la proroga del superammortamento per gli investimenti e quindi l'aliquota al 140%, ma anche, sempre per chi investe in innovazione, un iperammortamento che consisterà nell'incrementare l'aliquota degli investimenti dall'attuale 140% portandolo al 250%. Il ministro Calenda ha chiarito che questi 13 miliardi complessivi non saranno tutti sulla legge di bilancio del 2017, ma sarà importante capire quanta parte ricadrà già nella legge finanziaria del 2017 e quanta verrà posticipata al 2018. Per un piano dagli obiettivi ambiziosi e con un contesto esterno di un'economia in rallentamento, Il tempo non è una variabile indipendente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 9.04 minuti, ancora oggi, ancora domani, andiamo avanti fino alle 9.30, poi ci fermeremo alle 9, okay? Poi da lunedì. Chiederemo anche noi di restituirci i soldi al Comune di Roma, come il Comune. Al Comune, no, ma infatti fate una cosa, chiamate il Comune di Roma e dite ci dovete indietro dei soldi, casomai nel casino magari. Succede che capita, non so, che vi danno anche qualche soldo a voi. No, tutti anche, che... anche perché ti assicuro che sono tanti fornitori che aspettano, infatti, di essere pagati. Mettetevi in lista, non è che sia così ipotetica. Magari nella confusione, chissà se ci scappa qualcosa. Si scherza, eh? Qua ci sono due ascoltatori che ci chiamano da Roma, magari saranno un po' arrabbiati. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Eccoci. Io vi chiamo dal grande raccordo anulare, dove sono bloccato in coda da tre quarti d'ora. E come mai? Come mai? Lo faccio tutti i giorni è così, tenete presente, e poi farò quel percorso di guerra che è la pontina per andare a Latina. E dal mio punto di vista, credo da quello di molti romani, il dibattito su Olimpiadi no, Olimpiadi sì è lunare, perché qui stiamo chiedendo a un fratturato con l'enfisema polmonare di correre la maratona. Questi sono dei passi che evidentemente hanno, come dire, altri interessi. Perché chiunque abiti in questa città sa che questa città ha bisogno di tutto tranne che delle Olimpiadi. Lei sognerebbe solo banalmente, che ne so, il salto del traffico, ecco. Io sognerei banalmente di trovare una pontina senza buche e senza guardrail buttati giù. Vabbè, no, però è irreale, questo è un sogno irreale. No, esatto, però questo io dico, Giuseppe, con le Olimpiadi cosa c'è? Cioè con le Olimpiadi sì o con le Olimpiadi no? Lei è uno di quelli che dice prima sistematemi la pontina, poi fate le Olimpiadi. Questo. Io dico che se non ci sono i soldi per sistemare la pontina, voglio sapere dove trovano i soldi per fare le Olimpiadi. Voglio capire. Questo vuole capire. Vabbè, è una domanda legittima. Più da parte che legittima. Quando c'è a Roma la situazione che c'è, più che legittima. Sempre da Roma ci chiama Angelo. Buongiorno. Buongiorno Oscar, buongiorno Alina. Io vi seguo sempre, più o meno mi ricalco lo stesso intervento, e l'unico che ha detto le cose stamattina, giusto, ho sentito dalla trasmissione, secondo me più aderente alla realtà è stato Oscar, cioè che ha fatto un'analisi concreta del danno del problema economico. Però la cosa che è surreale, e soprattutto l'avvocato che è intervenuto mi ha stupito, è che il distacco che c'è fra la popolazione, la gente, i problemi della gente e quello che sono le considerazioni di questi personaggi che non hanno, si vede che al lavoro la mattina ci vanno con l'autista Malagò. Io stamattina ho avuto gli stessi problemi che ha avuto quella signora di prima, e c'entra con le Olimpiadi, perché se noi priorizziamo i problemi dell'Olimpiadi rispetto ai problemi reali di quotidiani, non abbiamo capito niente di quello che sono le necessità dei cittadini. Solo questo, guarda. Va bene. Non ho altro da dire. No, ma è stato sintetico, ma la sua opinione è ben chiara. Oh, ma ascoltatori che sono fuori dalle Olimpiadi ce n'è qualcuno? Perché no, dopo ci accusano di dire li selezioniamo. No, noi non selezioniamo. Selezioniamo niente, sia ben chiaro. Noi chiamiamo questo è l'equivoco, perché poi alcuni, quando mandano in onda, dice vi ringrazio di avermi chiamato. Esatto, è perché no. Loro, rispieghiamolo. Bravo, Alessandro. No, quelli che esordiscono, grazie per avermi chiamato, sembra che noi concordiamo. No, perché succede che Radio 24 c'è il nostro brillante, le nostre brillanti centraliniste che ricevono la chiamata, le persone poi lasciano il numero di telefono perché vogliamo evitare, come dire, che vadano in onda persone scriteriate, e poi noi richiamiamo, è solo una questione pratica. No, quindi, perché sempre c'è questa sembra, cosa. Grazie appunto, al Michiato. La prova che concordate le chiamate. No. Luigi da Cesena, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un intervento di questo genere, non entro nel merito di chi è pro e di chi è contro le ragioni degli uni, le ragioni degli altri, mi sembra però che il denominatore comune sia che il paese ne esce male da questa vicenda, molto male, perché in sostanza è una dimostrazione che non siamo in grado di fare quello che abbiamo fatto nel 1960. Io ho 65 anni, nel 60 andai a vedere le Olimpiadi di Roma, nel 61 andai a Torino Giannino si ricorderà le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia, la monorotaia, le cose, che quella era un'Italia, quello era un paese. Era un po' piccolino Oscar, adesso nascevo allora. Esatto, vabbè, ma se non ricorda, lo ricordo nei libri, no, vabbè, se no dopo l'ho raccontato, credo sia di Torino Giannino, no? Sì, sì, certo. La monorotaia, se non l'ha vista, però no, l'ho vista che non era più in funzione, ma insomma, voglio dire, si figuri. Va bene, però voglio dire, era un paese che usciva che l'aveva massacrato, era un paese che stava lentamente diventando un'economia industriale, sì, passando da un'economia agricola. Oggi, a distanza di 60 anni, noi dovremmo essere la sesta, la settima, sì, l'ottava paese più evoluto del mondo. Dobbiamo dire che non possiamo fare le Olimpiadi perché non abbiamo i soldi per farle, perché non abbiamo un'amministrazione in grado Di gestire. Luigi, lei esprime l'amarezza di aver visto un'Italia che non c'è più e che non è più in grado, così sintetizziamo e diamo spazio anche agli altri, che non è più quella urgente, no? Certo. Degli anni 60. Vabbè, ma neanche gli 60, neanche gli altri paesi sono premiata la lira per la sua stabilità. Però, ripeto, al Comitato Olimpico Internazionale sono preoccupati perché in tutti i paesi avanzati c'è una specie di allontanamento del calice delle Olimpiadi, cioè viene considerato ormai le Olimpiadi per paesi emergenti. Vedi la Cina che ci ha speso un pacco di miliardi sopra. Il bilancio di Rio per il Brasile, che ha avuto le Olimpiadi assegnate quando era quando aveva la crescita ruggente e adesso in gravissima recessione col sistema politico travolto dalle tangenti, paradosso, Lula ieri applaudito nelle Nazioni Unite, Lula lo arrestano per corruzione in Brasile tra un po'. Detto questo, è stato un paradosso per l'economia e i brasiliani sono rimasti a guardare, come avete letto se avete seguito le Olimpiadi, perché no, ragazzi, per noi è un disastro, altro che le promesse delle Olimpiadi. Quindi, ohimè, è un fenomeno di cui capisco le ragioni, questo della delusione degli italiani che dicono, però mamma mia che figura. Non siamo neanche più una potenza in grado. Però è vero che non solo noi italiani, non siamo quelli degli anni ruggenti del dopoguerra. Ma esatto, È così. Ma anche negli altri paesi, dov'è che ad Amburgo hanno fatto il referendum e hanno detto, col cavolo le Olimpiadi, no, grazie, non le vogliamo, ed è la Germania. No? Giacomo ci chiama da Lucca, buongiorno Giacomo. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Spero che i vostri centralinisti abbiano fatto una cerdita sana. Sicuro, grazie sicuro per avermi richiamato. Grazie. Almeno vi metto nei guai su. Oh. No, una domanda che mi sono posto, no? Lavorando io spesso in situazioni dove enti sono costretti a pronunciarsi anticipatamente. Quello che io mi domando e che mi suona strano. Ma perché arrivare ad oggi dove il sindaco neoeletto che ha fatto una campagna elettorale sul diniego alle Olimpiadi e lo aveva promesso e quindi, voglio dire, sta giustamente nelle sue corde, nelle sue promesse, anzi tanto di cappello che non si è rimangiato le parole, perché non esiste un parere vincolante e preventivo, ovvero quando si decide di candidare Roma, sia chi sia il sindaco in carica, sindaco di Roma, sì, ministri vari, ministeri vari, ovviamente governo, una volta che si dice sì, il parere poi deve essere vincolante, deve essere raccolto da chi poi li seguirà. È quello che ci ha detto l'avvocato Pellegrino, per questo motivo chiederanno, penso, indietro i 15 milioni, cioè dicendo la giunta Marino e il consiglio comunale di Roma ha votato sì e per l'avvocato Pellegrino questo parere è vincolante. Fino a che un consiglio vota no. Comunque fa bene, voglio dire, il comitato chieda i soldi a Roma indietro, benissimo. Il punto di fondo è che noi stiamo occupandoci di questi milioni che hanno speso loro invece che dei miliardi che costano le Olimpiadi, sì, sì. E anche questa è una tattica elusiva ed è coerente a quella che il comitato promotore, mi dispiace sottolinearlo, ha seguito nel tempo, cioè l'idea è ce la vediamo col governo, che è un'idea, francamente, visto che a pagare è il modesto, umilissimo contribuente italiano, Comunque, Oscar, questa vicenda forse è conclusa, forse ci sarà qualche strascico e vedremo. E lo racconteremo, ovviamente. Noi dobbiamo cambiare tema, però. Raccontare con gli ascoltatori all'800240024. Della vicequestora. Ah, no. No, non della vicequestora. Ti ha colpito questa vicequestora che sì, è piombata in una situazione medievale. Perché la dice lunga anche lì di come le invidie e il maschilismo italiano. Raccontiamo, però, c'è la vicequestora a Catania, sì. Donna, che ha postato una foto sul proprio profilo pubblico. Marilina Giaquinta. Delle proprie gambe, un pochino scoperte, ha una sottana, una gonna, insomma, le gambe. Gambe con una gonna regolarissima. E immediatamente i sindacalisti hanno detto: ah, le gambe, cosa? Ma l'illusione per cos'è? Per il comportamento indecente al questore. L'hanno denunciato al questore. E siccome naturalmente lei corre per diventare questore, si capisce che in Italia, ovviamente, dai. I maschi a quel punto utilizzano tutto pur di. Mi sembra più una questione di. Ma no, ma vorrei che fosse chiaro a chi ascolta: lite. Non c'è. Proprio neanche il più atrocemente beghino reduce da 200 anni di istruzione solo sotto gli eye dell'Opus Dei potrebbe vedere in quella fotografia niente di scollacciato, ammiccato. Infatti mi sembra più un pretesto per fare una sfida però, professionale. Ripeto, viva l'Italia. Viva l'Italia. Allora parliamo di chi fuma, o meglio di chi svapa. Tu svapi? Non svapo. Io come dico sempre, sono antichi toscani. Sono antichi toscani. Perché gli svapatori sono tanti in Italia. Si sono anche un po'. Erano di più. Poi lo Stato ha pensato bene di ucciderli fiscalmente, esatto. Perché ci guadagna troppo con le sigarette. Però ci sono una serie di parlamentari, credo anche svapatori. Uno di questi è Ignazio Abrignani. Buongiorno, il gruppo misto. Buongiorno, onorevole Abrignani. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Svapatore? Sì. No, mai fumato. Ho però due figli che fumavano. Uno ha smesso da solo, è diventato salutista improvvisamente, fa bene. L'altro è passato dalle sigarette alla sigaretta elettronica, per cui sono molto contento, perché secondo me la sigaretta elettronica, non dico che fa bene, ma sicuramente non fa male. Non fa male come una sigaretta. E vi siete equalizzati, avete fatto anche un sito, vi siete messi insieme per chiedere che cosa? Di abbassare le tasse nel settore? Diciamo sono varie le richieste. La prima richiesta è utopica forse, di non considerare la sigaretta elettronica una sigaretta tradizionale. Perché se noi concepiamo e abbiamo questo tipo di impostazione, abbiamo fatto un grosso passo in avanti sotto ogni profilo. Perché cosa ha fatto sempre lo Stato? Ha considerato la sigaretta elettronica come una sigaretta. Perché cosa faccio? Io tasso la sigaretta nel suo intero e tasso la sigaretta elettronica nel suo intero. Cioè, la sigaretta elettronica è fatta, non c'è combustione, penso che ormai lo sanno tutti, c'è questa batteria che alimenta la produzione, diciamo, del fumo attraverso dei liquidi che vengono messi lì dentro e possono essere dall'anice alla nicotina, insomma ci sono vari tipologie aromi, di aromi, chiaro. E aromi, esatto. E direi che questa parte del liquido è sicuramente la parte che si consuma e che potrebbe essere in qualche modo sottoposta a una tassazione. Invece si è deciso di tassare di per sé la sigaretta elettronica, proprio perché forse si considera come una sigaretta, nel suo intero. C'è anche la famosa batteria, che per cui tu compri già tassata con accise. Forse eccetera, per fare più soldi, onorevole Abrignani, banalmente lo Stato ci ha visto, faccio il Giannino adesso, lo Stato ci ha visto un modo per fare più soldi. Solo che si è passati da decine di migliaia di negozi di sigarette elettroniche in Italia, soprattutto in un periodo come il 2012-2013, che cosa ha voluto dire dell'economia italiana, a forse 5.000. Ma perché? Perché chiaramente nel momento in cui tu aumenti in maniera triplichi quella che è una tassazione, il costo aumenta, i margini non ci sono più, i negozi non si reggono più, l'unico che se ne avvantaggia sono, permettete di dirlo, gli svapatori abusivi, cioè quelli che vendono a porta portese, che vendono fuori mano, che vendono sotto costo, cioè dove lo Stato non più nulla. Per cui lo Stato che aveva previsto, termino questo mio piccolo inciso, un incasso di circa 80-90 milioni, ha preso 5 milioni. No, ma allora, infatti si vedeva a Milano c'erano un negozio ogni 100 metri all'epoca, poi è stata aumentata la tassazione, hanno aperto, hanno chiuso con la stessa rapidità. Naturalmente rimanendo poi indebitati con i debiti da pagare. Dove il lavoro non c'era, dove l'economia andava male, allora poteva essere un piccolo sfogo per tanti giovani, per tanti piccoli imprenditori che volevano lanciare. Però insomma, onorevole Brignani, insieme a lei vogliamo salutare Roberto Bertollini, che rappresenta l'OMS presso l'Unione Europea e spesso nostro ospite. Professor Bertollini, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Intanto la possiamo considerare una cosa diversa dalla sigaretta tradizionale, la sigaretta elettronica, anche dal punto di vista proprio salutistico, si può considerare così? Beh, certamente la sigaretta elettronica molto probabilmente meno nociva della sigaretta normale. Certo, è comunque una modalità di assuefazione alla nicotina che, per quanto ci riguarda, è una delle modalità attraverso i quali si mantiene, diciamo, la assuefazione alla nicotina, e quindi si ritorna poi molto facilmente alle sigarette. Noi abbiamo constatato in diversi studi che sono stati svolti a livello internazionale che è molto frequente quello cosiddetto dual use, cioè l'uso combinato, cioè la gente usa la sigaretta elettronica in certi momenti o in certe giornate, in certi ambienti, e usa la sigaretta normale in altri. Quindi bisogna un po' sfatare il mito per il quale la sigaretta elettronica è uno strumento per smettere di fumare, perché è stato dimostrato da diversi studi, tra l'altro uno pubblicato sul Lancet pochi mesi fa, che addirittura ostacola, diciamo, l'abbandono dell'abitudine al fumo. E anche complementare, lei a volte dice, cioè un po'. Complementare, e anche in alcuni casi non è stato ancora completamente dimostrato. Una delle nostre particolari preoccupazioni era che fosse una modalità d'uso che favorisse l'acquisizione dell'abitudine al fumo nei giovani. Questo effettivamente non è stato ancora completamente dimostrato, però a noi quello che interessa è soprattutto il dual use, cioè l'uso combinato, perché non è un modo per smettere di fumare. Quello che ci interessa è che la gente smetta di fumare. A proposito di giovani, ma è vero che in Italia c'è questa ricerca, in Italia ci sono i giovani, il maggior numero di giovani rispetto all'Unione Europea che purtroppo fumano, è vero? Esattamente, perché noi abbiamo dati. È perché, diciamo, da un lato il prezzo che è anche se non è bassissimo, comunque è accessibile ai giovani. Dall'altro ci sono una serie di role models, diciamo così, cioè modelli di comportamento. Lei sa bene che la pressione del gruppo, diciamo, è molto importante tra i giovani, e quindi questo determina un'acquisizione dell'abitudine al fumo più facile in questa fascia di età. Si sente più adulti, più grandi, più emancipati. E poi la cosa che preoccupa di più non è tanto il valore che lei forse ha citato, 37%, 38%, quello che è, ma è che quando uno acquisisce l'abitudine al fumo, la acquisisce entro i 19 anni di vita, nella grande maggioranza dei casi, e una piccola percentuale ulteriore tra i 20 e i 24, e poi la mantiene. Quindi avere un'alta frequenza di abitudine al fumo tra i giovani significa averla probabilmente anche in età adulta, e questo è un grandissimo problema. Le ricordo così incidentalmente che il fumo uccide metà dei suoi consumatori e causa in Italia 80.000 morti l'anno, il 90% dei tumori del polmone e il 30% delle malattie cardiovascolari. È una cosa drammatica di cui si parla poco, e io avrei delle proposte da fare, ma temo di farle perché Giannino si parla di tasse, quindi non vorrei parlare. Lo sfidi. Io penso, lo dichiaro prima. Vorrebbe aumentare il prezzo. Ricordo solo che sul pacchetto il 75% va già allo Stato. Se vogliamo aiutare l'illegalità, lo dimostrano i paesi che a fini di bene, cioè perseguendo i suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, penso alla Gran Bretagna per esempio, hanno molto alzato il pacchetto e il prelievo fiscale, ma molto alzato il prezzo. Bene, quei paesi che non conoscevano, a differenza dell'Italia, che storicamente conosceva nell'immediato dopoguerra e fino agli anni 80 un vastissimo mercato illegale delle sigarette, ebbene, quei paesi adesso hanno più di un quarto del settore che è finito nell'illegalità, cioè nel contrabbando delle sigarette. Lo dico prima, così però le lascio campo libero. No, perché lei sarebbe, immagino, Bertolini, per l'aumento del prezzo delle sigarette. Questo dato che lei dice non mi risulta. Peraltro c'è una convenzione contro il traffico illecito di tabacco che è stata approvata a livello internazionale. L'Italia non l'ha ancora ratificata, sarebbe il caso di ratificare. Vero. E questo è una modalità di lotta contro questa eventuale conseguenza che dice lei. Io le voglio solo dire questo, che se si aumentassero non di un centesimo a sigaretta, come è stato detto e poi puntualmente è scomparso dalla circolazione il dibattito, ma se aumentasse di botto le sigarette di 2 euro a pacchetto, noi avremmo una diminuzione della frequenza di fumatori di circa 2 milioni di persone in meno in un periodo di tempo abbastanza limitato, non immediato. Questo comporterebbe 2 milioni in meno di persone dagli 11 milioni e 100 mila che sono adesso fumatori. e questo avrebbe un impatto più grosso tra i giovani che hanno meno risorse economiche, avrebbe un impatto anche, diciamo, economico, perché le 150, 120, 200 euro al mese che la gente spende in sigarette rientrerebbero nel circuito economico, si risparmierebbe sulle spese sanitarie e lo Stato, mi dispiace Giannino dirlo, aumenterebbe il suo introito di 3 miliardi di euro, perché la diminuzione della frequenza non è tale da compensare, diciamo, l'aumento delle tasse. Quindi diciamo, è un uovo di Colombo, solo che come si parla di questa cosa, si crea un problema. Tra l'altro si potrebbe anche compensare i tabaccai con una piccola quota di questo aumento, quindi togliendo anche quell'opposizione a quel livello lì. Però qual è il problema? La forza politica ed economica delle compagnie produttrici di sigarette, che sono potentissime. Io a Bruxelles dico che nella discussione sulla direttiva del tabacco ci sono stati 150 lobbisti a tempo pieno, a ognuno dei quali erano assegnati 3 parlamentari o 4 parlamentari, che hanno tentato in tutti i modi e maniere di evitare che si approvasse la direttiva sul tabacco, che poi è quella che è stata tradotta in Italia qualche tempo fa. Questa è la sua posizione molto, molto chiara, di Bertolini. So che Oscar... No, ma io ripeto, adesso scusi Bertolini, come faccio a credere, ci credo, ma voglio dire... Se ci credo mi preoccupo, se lei mi dice che le stime che sono ufficiali fatte dalle autorità tributarie britanniche in un loro rapporto sugli effetti nel primo anno dell'aumento molto elevato che c'è stato, seguendo le vostre indicazioni, del prezzo del pacchetto in Gran Bretagna, dell'aumento del mercato illegale, se lei mi dice non ne sono a corrente, obiettivamente tenderei a dire no, figuriamoci se non è a corrente. Se vuole ve li mando, perché sono i rapporti fiscali del governo britannico, ma per dire, non è che me lo invento. E poi vorrei che gli ascoltatori avessero chiaro, il sottoscritto, mi sentirei di dire tutti i colleghi di Radio 24 senza nessun problema, però di sicuro il sottoscritto non è a libro paga delle multinazionali, no, io poi non fumo sigarette oltretutto, quindi, però detto questo, quando la pressione fiscale sul pacchetto è già così molto elevata come in Italia, credere che non ci siano effetti di sostituzioni all'aumento del prezzo o all'aumento del prelievo, beh, è un po' smentito da tutta la letteratura che conosciamo. Il che non significa, per carità di Dio, non voglio essere equivocato, che le finalità che persegue l'Organizzazione Mondiale della Sanità dicendo questa è una dipendenza che crea patologie, crea esternalità negative che costano al contribuente e non solo la vita ai malati e al portafoglio dei malati per chi fuma. Queste sono tutte cose sacrosante. Io mi chiedo se facciamo abbastanza, per esempio, per l'educazione e la cultura dei modelli giovanili, maschili e femminili. Ecco, quello mi chiedo. Altrimenti l'automaticità, e ho concluso, degli effetti tutti positivi degli aumenti al pacchetto di 2 euro senza contrabbando, che a quel punto fa venire meno una parte dell'aumento dell'entrata per lo Stato, una parte significativa degli effetti positivi di salute pubblica e delle esternalità negative che tutti paghiamo e non solo chi fuma sulla sua salute. Ecco, io tenderei a dire guardiamo le esperienze del mondo e ragioniamoci sopra. Mi limito a dire questo, figuriamoci se posso dipingere l'Organizzazione Mondiale della Sanità come una società che persegue il male, persegue il bene, è ovvio, non è questo il punto. E sugli strumenti botta fiscale, aumento del prezzo, che l'esperienza dice che non è proprio così automatica. Ci dobbiamo fermare e la trasmissione finisce qui anche oggi, con Peter Bescapè in regia, la nostra Elisabetta Fusconi insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Ringraziamo ovviamente Roberto Bertolini, Brignani per essere stati con noi. E caro Oscar, ci troviamo domani, venerdì, ultimo giorno, fino alle 9.30. Ultimo giorno? Non dire così, la vita prosegue. Ho detto ultimo giorno fino alle 9.30. Ok. Va bene, ciao.